è mai capitato di stare da solo, guardare quelle nuvole in cielo e ascoltare per un attimo davvero quello che ho da dire per adesso e tuo futuro? Ti è mai capitato di amare davvero e in un modo sincero, stare bene tanto tempo ma poi ti rendi conto che ti ritrovi ormai davanti a un bivio? Ti è mai capitato di odiare qualcuno che fino adesso ha preso per il culo e sapere quel che ha fatto magari di nascosto e impari a non fidarti di nessuno? Sento come un mondo che ora muore dentro me. E così tutto quello che mi è stato dato, fino in fondo nel mio cuore l'ho apprezzato. Una famiglia, degli amici non ho mai rinnegato e non mi sono sentito mai rassegnato. È ora di un risveglio per me, ma ora penso, guardo fino in fondo questo mio riflesso spento. Mi hanno detto che sono stato un pazzo, maneggiato come fossi un pupazzo. Ora sto solamente guadagnando il mio spazio mentre guardo questo mondo dal peggio. Sento il respiro della vita, ancora non è finita, stringo le dita. Sento il respiro di una frase, un pensiero che nuoce e rifletto in pace. Sento il respiro della vita, ancora non è finita, stringo le dita. Sento il respiro di una frase, un pensiero che nuoce e rifletto in pace. E alla vista di un amico, anche se tornerò un po' leso, l'amore sulle spalle d'un pugnale dietro appeso. E riuscirò ad andare avanti senza i miei fantasmi. Torno a casa, ripenso di una cosa, un amore, un amico, la vita è scusa. E disarmano ogni tipo di accusa e chiudo tutto questo in una mente confusa. Sento che ho bisogno di avvolgermi in un sogno. Vorrei raggiungere un impegno, ma a volte penso di non esserne degno. Di poche cose nella vita mi vergogno, ma troppa gente mi ha deluso fino in fondo. E questo forse un giorno vedrai, se tenterai, tu arriverai. Vorrei provare almeno a morire, non sentirmi mai più dire tutto quello che devo fare e riuscire almeno a capire. E sai, è presente quando la gente ti umilia per niente davanti agli amici, ti senti tradito da tutti mentre ti umiliano crudi sorrisi. E una scenata per strada, reazione impazzita, gente che parla e gioca in difesa. La tua reputazione è sempre in discesa, accumula ogni tipo di offesa. Ripeto già da tempo, ma in questo momento assaporo fino in fondo questo mio sentimento. E ti è mai capitato di stare sdraiato su un campo di prato? E dai, ma provate a viaggiare di mente e rispondere ad ogni quesito. E chissà se vuoi, chissà se vuoi darmi una mano, tu che puoi. Io dovrei rilassarmi, chiudere gli occhi e dopo gettarmi in un mondo senza spigoli o armi, una spinta verso il mondo dei grandi. Sento il respiro della vita, ancora non è finita, stringo le dita. Sento il respiro di una frase, un pensiero che nuoce e rifletto in pace. Sento il respiro della vita, ancora non è finita, stringo le dita. Sento il respiro di una frase, un pensiero che nuoce e rifletto in pace. E alla vista di un amico, anche se tornerò un po' leso, l'amore sulle spalle d'un pugnale dietro appeso. E riuscirò ad andare avanti senza i miei fantasmi. Sento il respiro della vita, ancora non è finita, stringo le dita. Sento il respiro di una frase, un pensiero che muoce e rifletto in pace. Sento il respiro della vita, ancora non è finita, stringo le dita. Sento il respiro di una frase, un pensiero che muoce e rifletto in pace. E alla vista di un amico, anche se tornerò un po' leso, l'amore sulle spalle d'un pugnale dietro appeso. E riuscirò ad andare avanti